Partiti oggi alle 2 da Dublino, seguiamo la pista messa su dal Critical Mass, che il 19 è partito verso Shannon. Una decina di ciclisti si sono fermati in più tappe fino ad arrivare appunto a formare un campeggio di solidarietà a Shannon, dove ci stiamo dirigendo per la prima manifestazione di stasera. I gruppi più presenti sono appunto il Irish Anti-War Movement e il Ambush, che è un gruppo costituito dal Grassroots Gathering. Al momento vi è stata una breve perquisizione appunto al campeggio dove gli altri sono aggregati. Aspettiamo di vedere come si risolverà la situazione. Per ora siamo in autobus e c'è stata una massiccia mobilitazione di esercito e forze dell'ordine. Si parla di 6.000 agenti dispiegati appunto solo per l'arrivo di Bush Junior a Dublino. Domani l'incontro con gli altri primi ministri europei per discutere appunto e cercare di accattivarsi la simpatia per la guerra in Iraq. Altri gruppi arriveranno da Galway, Limerick, Cork e in ognuna di queste città si svolgerà una manifestazione sia stasera che domani per la giornata. Parecchie mobilitazioni sono in programma, tra i quali un die-in collettivo con coperte nere, con appunto coprirsi di nero per ricordare le stragi che stanno avvenendo nella guerra per l'olio.